quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare, bisogna ascoltare due di denari come Assa e la Rosciani. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Cara Deborah, è la suadente voce di Paul McCartney che ci aggiorna sulle ultime novità del decreto rilancio e della materia controversa, peraltro, dei voucher e dei rimborsi. C'è addirittura un emendamento che è stato chiamato McCartney. Emendamento McCartney. Direi una canzone profetica, oserei dire. Eh sì, dice non darmi il denaro, dammi solo una carta, insomma sarebbe denaro, voucher, insomma queste cose qui, no? Ma cosa prevede questo emendamento McCartney di grazia? Allora, prevede che sì, come dire, l'organizzatore del concerto saltato ti dà un voucher, però un voucher che dura un massimo di 18 mesi. Se in questo lasso di tempo il concerto previsto, l'evento previsto non riesce comunque ad essere organizzato, allora tocca rimborsare. Il punto è che in realtà in queste settimane di eventi, sono stati migliaia saltati, già molte persone si sono fatte avanti per chiedere l'erogazione appunto di un voucher che hanno già in mano, quindi intanto si tratta di capire chi è già avanti con la procedura se potrà fare una marcia indietro ed eventualmente avere diritto a chiedere un rimborso in soldoni. E quindi è una situazione ancora un po' complessa, ecco. Non ci rimane che cantare con Paul McCartney e comunque essergli riconoscente, perché è stato grazie a lui che si è sollevata in maniera prepotente questa situazione. Comunque è chiaro che, Mauro, i consumatori hanno anche ragione. Io non vedo il concerto che avevo prenotato con tanto anticipo, quindi ho diritto al rimborso. Immaginiamo però anche in quale difficoltà si trovino tutte quelle strutture, tutti quegli organizzatori di eventi di questo tipo che hanno la loro attività totalmente paralizzata in questo momento e quindi, come dire, auspicano di poter ripristinare al più presto eventi cancellati. Cioè, diciamo che loro, come dire, hanno questa idea che possa essere una cancellazione temporanea, no? Ed è quello e che non definitiva. È quello che tutti ci auguriamo. Allora, com'è andata ieri? Ti ho lasciata sola, ma per impegni importanti. So che hai avuto, guarda, anche tu ospiti importanti, del resto. Sì, sì, è andata molto bene. Peraltro mi hai dato l'opportunità, mentre tu la presentavi con Assogestioni, questa indagine di Censis sulla situazione economica delle famiglie italiane. Ma questa è una settimana molto ricca di eventi in questo senso. Stamattina a Due di Denari presenteremo l'indagine Doxa, organizzata, predisposta, realizzata su commissione del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. Ma in realtà è una settimana ricca di eventi, perché ti devo raccontare che lunedì scorso, oltre ad essere partito il collocamento del BTP Futura ed oltre ad essere partita l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo su UbiBanca, tra una marea di polemiche che neanche ti sto a dire, è partita anche un'altra ricognizione. Questa volta riguarda il mercato assicurativo, ma so che la sai anche tu questa notizia. La so e ne parleremo nella prima parte del nostro programma. Intanto, se volete contattarci, scriverci, faxarci, mandarci dei messaggi WhatsApp, allora 800 24 00 24 è il numero verde come al solito, 349 238 6666 è invece il numero per inviare SMS o WhatsApp, peraltro anche vocali. Abbiamo un breve giornale radio del risparmio e poi partiremo con ben due temi, quindi, se capisco bene, entrambi legati, per così dire, alla nostra conoscenza e consapevolezza finanziaria. Speriamo di fare una figura migliore del solito, Deborah. Di solito dici, come che dire, interrogano? Ma speriamo che oggi spieghino, perché sai che noi italiani restiamo sempre un po' debolucci sulla materia e poi magari così diventiamo anche più vulnerabili. Ma che te lo ricordo a fare, tu mi sei maestra in questo. Allora, io ringrazio dall'altra parte del vetro la deliziosa Laura Faggin, il premuroso Peter Bescapè e naturalmente il petaloso, direi, tanto per trovare una rima, Marco Lombardo, che da oltre, da fuori, da casa, tutto governa e tutto vede. Vuoi che partiamo col giornale radio del risparmio? Voglio, voglio. Drin drin, edicola risparmio. Allora, kiss me per legarci a una notizia che riguarda il rossetto. Perché? Perché c'è un report interessante elaborato da 24 ore ricerche e studi insieme all'area studi di Mediobanca sul settore della cosmesi e il titolo che è stato dato è effetto rossetto contro effetto Covid. Non fa lo stesso effetto che dirlo in inglese, ma perché forse non tutti sanno che esiste un lipstick index, cioè l'indice del rossetto. Spiegalo tu, Deborah, che sei più preparata. Questa sì, no, perché è una notizia molto carina, tra l'altro te lo ricorderai, ne avevamo parlato anche in occasione di una puntata di Investire Informati e ci avevamo giocato con i nostri ascoltatori appunto con il nostro domandone. Sì, questo indice del rossetto è stato coniato nel 2001 all'indomani della tragico attentato appunto alle Torri Gemelle. Se lo inventò, ma in realtà lo richiamò da come dire un'altra storia precedente, Leonard Lauder, che è il presidente di Estée Lauder, una grande casa appunto di cosmetica che tutte noi donne conosciamo. Nella sostanza, che cosa ci dice questo indice? Che nel periodo immediatamente successivo a momenti molto duri per la storia, per l'economia, sembra che nelle profumerie o nei centri di bellezza, nei supermercati, nei centri commerciali, ovunque si possa comprare, schizzino le vendite dei rossetti. E questo viene, come dire, un po' interpretato come un segnale di volontà di ripresa dell'economia. Il punto è che adesso sarà un po' difficile monitorare questa voce di consumo, caro Mauro, perché con ste mascherine dove mai vuoi che ci mettiamo il rossetto noi donne? Quindi sarà un indice che non potrà essere testato in questa fase per così monitorare la ripartenza dell'economia. Ma si potrebbe ripiegare su qualche trucco per gli occhi, mi viene da dire così, tanto per magari il poniamo rimmel, un mascara nera. Index, una cosa così, esatto. Vediamo. Aggiorniamo il lipstick perché index, no? Accettiamo idee. Allora, invece io ti voglio dire che c'è una sentenza importante dal Tribunale di Venezia, è un primo grado, quindi poi tutto può ancora succedere, però attenzione, come sappiamo il decreto rilancio contiene anche un emendamento, cioè conterrà una modifica che diventerà presto legge, per rilanciare il lavoro agile nella pubblica amministrazione senza penalizzazioni. Però il Tribunale di Venezia nel frattempo dice: ha ragione il comune, non si danno i buoni pasto ai dipendenti in smart working. Quindi dipendenti della pubblica amministrazione in smart working, no ai buoni pasto. Lo dice il Tribunale di Venezia, peraltro con una certa forza, perché aggiungono i giudici, la questione è talmente automatica che non ha neanche bisogno di essere oggetto di confronto con i sindacati. Vi risparmio tutta la trattativa che c'è stata, tutta la trattazione, pardon, di tipo giuridico, la sostanza la trovate su Norme e Tributi, le pagine di Norme e Tributi di oggi sul Sole 24 Ore, naturalmente pagine che dovreste sempre leggere religiosamente. Tu lo fai, Deborah? Infatti. Io sì, abbastanza, non più religiosamente, però devo dire che stamattina due o tre notiziole carine le abbiamo trovate, fra cui questa. Domani invece troveremo un inserto molto importante e, come dire, accontenterà tutti quegli ascoltatori assolutamente golosi di queste informazioni in questo periodo, al punto che questa storia del bonus del 110%, Mauro, potremmo sicuramente promuoverla come la più gettonata tra le richieste di chiarimenti da parte dei nostri ascoltatori che ci giungono alla nostra mail a 2didenari@radio24.it. Stiamo veramente tormentando benevolmente ovviamente tutti i nostri esperti con tutte le necessarie appunto notizie da dare ai nostri ascoltatori che vorrebbero fare questi interventi. Cosa succede domani con il Sole? Domani con il Sole c'è un inserto di 4 pagine, più naturalmente tutte le notizie, gli aggiornamenti di cronaca, ma la sostanza è che questo inserto conterrà tutte le novità che sono state introdotte e stanno per diventare legge al super bonus del 110%, quindi tutto rispiegato di nuovo da capo e con ordine domani con il Sole 24 Ore all'interno del Sole 24 Ore. Sai che questo 110% davvero è il tormentone dell'estate, un po' potremmo farci una canzone, magari adesso ci pensiamo e così diventa anche un tormentone musicale. Per intanto sentiamo il nostro dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Volevo soltanto evidenziare che io ho fatto un investimento di 100.000 euro su un appartamentino che ho messo in affitto con la cedolare secca al 10%. Sto prendendo 500 euro al mese, quindi ne prendo 4,50 nette, e questo fa sì che stiamo parlando di 6.000 euro circa di guadagno all'anno, quindi stiamo parlando del 6-7% sull'investimento totale, che mi sembra che in questo momento non lo dia nessuno. Ebbene, siamo sì, contenti di questa scelta, certo, del nostro ascoltatore. Attenzione, agli immobili hanno avuto un po' di scossoni negli ultimi anni, devo dire, il valore degli immobili ha oscillato parecchio e spesso verso il basso. Comunque è un tema anche questo di educazione finanziaria. Allora, cosa c'era di meglio per introdurre il nostro primo ospite, Deborah? Vuoi che te lo presenti? Sì, ma non mi mandi una sigletta giusto per introdurlo come si deve, visto che è la prima volta che interviene da noi. Allora, sì, facciamo una cosa proprio puntuale e introduciamo con una sigla apposita specifica. Allora Deborah, dobbiamo parlare di questa indagine nazionale per misurare il livello di conoscenza assicurativa degli italiani. E un livello che, come sai, non va fortissimo, perché il nostro livello di conoscenza anche assicurativa è pari a quello del nostro livello di alfabetizzazione finanziaria, cioè scarsotto. E questa è la prima indagine nazionale che viene condotta, è un'indagine che è stata sarà condotta in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca e con 2 istituti di ricerca, BVA e Doxa. Come ha spiegato il presidente dell'IVAS Daniele Franco in una lettera che è stata inviata al campione dei cittadini che viene selezionato, l'obiettivo è individuare le iniziative di educazione finanziaria più adeguate alla tutela dei consumatori. Non so quanto i nostri ascoltatori si riconoscano in questa debolezza di conoscenza assicurativa. Le informazioni, naturalmente, per chi sarà attestato, saranno rese in forma anonima e quindi non ci sarà alcuna lesione, nessuna preoccupazione per la privacy. Ti dico anche che il progetto è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito appunto della Strategia Nazionale per l'Educazione Finanziaria, che, come sai, e se vai sul sito del Comitato Nazionale lo puoi vedere anche nella dicitura ufficiale, l'educazione finanziaria comprende anche gli aspetti assicurativi e gli aspetti previdenziali. Cara Deborah, non abbiamo ancora al momento il collegamento con il nostro ospite, vuoi dare qualche dettaglio ulteriore di questa partecipazione, di queste interviste? Sì, guarda, è un tema molto interessante questo, perché è molto curioso il fatto che gli italiani non conoscano le dinamiche del funzionamento appunto degli strumenti assicurativi. Noi sappiamo che gli italiani non si assicurano in termini generali, si assicurano poco, sono sottoassicurati per tante ragioni. In primo luogo perché hanno quella obbligatoria da sottoscrivere, che è l'RC auto, e generalmente è stato definito anche da molti esperti del settore, anche dalle associazioni dei consumatori, è una spesa talmente importante per il bilancio della famiglia che va un po' a necessariamente come dire, inglobare le altre, nel senso che questa se le mangia tutte le altre possibilità di coprirsi dal punto di vista assicurativo. C'è anche molta sfiducia nei confronti del settore, perché viene giudicato come un po' opaco, poco trasparente, ma soprattutto non rispetta le promesse fatte. Ci si assicura perché ci si vuole coprire da determinati rischi, e poi guarda caso, quando ti capita un sinistro, quando ti capita un danno, ecco che l'assicurazione, come dire, ti fa scoprire proprio quella clausola del contratto, quella postilla che tu non avevi visto bene, che è proprio casualmente quella che esclude la possibilità di essere risarcito. Quindi, diciamo, si paga magari per lungo tempo una copertura, poi quando ne hai bisogno, ecco che l'assicurazione non fa quello che deve. Questo è un po' il percepito delle persone, questo è il motivo per cui ci si assicura poco. È anche vero che c'è una terza ragione per cui gli italiani non hanno grande confidenza con gli strumenti assicurativi. Abbiamo uno Stato che ci protegge molto, almeno lo ha fatto tanto fino a questo momento dal punto di vista sanitario, previdenziale, quindi non siamo educati al settore privatistico come succede in tante altre grandi economie negli Stati Uniti, nel, come dire, nell'ambito anglosassone. È un terreno verso il quale ci stiamo spostando da qualche anno a questa parte, quindi sempre di più comprendiamo l'importanza di fare da soli una copertura assicurativa per la previdenza, una per la responsabilità civile del capo famiglia, e quindi c'è anche un po' questo tema. È proprio complessivamente, come dire, un fattore educativo. Tra l'altro, quindi, Deborah, vorrei aggiungere una cosa. Sai che stiamo preparando l'edizione estiva del Serpente Corallo, il nostro programma appunto che conduco con Marco Loconte e con Stefano Elli, alias noi tre i Chapter 11, e ci occuperemo anche quest'anno di truffe. Abbiamo notato che c'è un aumento, e ne parleremo nel programma, di queste polizze RC auto farlocche, truffaldine, insomma, uno è convinto. Oltretutto. Eh sì, perché tra l'altro ha giocato contro, così ci hanno spiegato, insomma, gli esperti che abbiamo cominciato a sentire, questo fatto di essere in lockdown, di essere costretti, quindi abbiamo navigato molto su internet, magari abbiamo trovato anche delle proposte che sembrano interessanti, ma attenzione, perché talvolta invece non sono proposte interessanti, sono delle vere e proprie truffe. Uno è convinto di essersi assicurato, aver fatto una RC con un prezzo particolarmente conveniente, un premio particolarmente conveniente. Non è così, in realtà non è assicurato, ha solo dato dei soldi a qualcuno, soldi che sono finiti chissà dove, spesso ci hanno detto naturalmente all'estero. Quindi buona norma sempre verificare sul sito dell'IVAS con due S, mi raccomando, se la persona con cui stiamo trattando, l'ente, la società con cui stiamo trattando è regolarmente autorizzata, è una di quelle che offrono effettivamente copertura per la responsabilità civile, certo, per la guida della macchina. Intanto però ti posso dire che abbiamo raggiunto con un ponte rocambolesco, di cui ringrazio tutti gli assistenti dall'altra parte del vetro, Anna Maria Lusardi, cioè il direttore del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. E quindi quale miglior voce per commentare questa e altre iniziative? Bentornata a Due di Denari, professoressa Lusardi. Buongiorno a voi, grazie di avermi invitato. Deborah, prego. Possiamo, sì, no, chiudiamo magari allora, visto che non riusciamo a appunto collegarci telefonicamente con il nostro dirigente IVAS, il dottor Stefano De Polis, il segretario generale. Abbiamo un piccolo intoppo telefonico questa mattina, lo recupereremo in un'altra circostanza. Prima di avviare la nostra conversazione con la professoressa Lusardi, prima che io vi racconti quello che succede stamattina in borsa, diamo gli ultimi tre dettagli, Mauro, se ritieni, di questa indagine di IVAS per misurare le competenze nell'ambito assicurativo degli italiani. Il progetto, ricordiamo, è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sempre nell'ambito della Strategia Nazionale per l'Educazione Finanziaria Assicurativa e Previdenziale, quindi questi due aspetti vanno sottolineati. L'adesione all'iniziativa è volontaria, per cui se verrete interpellati da funzionari di questi due istituti di ricerca incaricati di appunto effettuare questo sondaggio, sappiate che non siete obbligati a dire sì o no, ma magari se direte sì avrete dato un contributo importante appunto ad un risultato scientifico anche interessante. Chiaramente verrà precisato che il nominativo è stato selezionato in modo casuale dalle liste elettorali, quindi non c'è una ricerca di un nominativo su un altro per determinati per determinate ragioni, è proprio, come dire, un campionamento assolutamente casuale, e quindi poi vedremo a conti fatti che cosa emergerà da tutto questo. E tra l'altro non so quanto tempo questa indagine durerà e quando poi verrà rilasciato il risultato finale, quindi magari poi se riusciremo a recuperarlo ce lo faremo dire dal dottor Polis. Però insomma è importante dare questo contributo, perché se non vi piace qualcosa del vostro rapporto con la compagnia di assicurazione avete un'occasione storica per poterlo sapere. Dire ora o mai più. Esattamente, guarda, lo chiediamo subito a Stefano De Polis, segretario generale IVAS, quanto dura l'indagine e quando conosceremo i risultati. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a loro e ai radioascoltatori. L'indagine ha proprio preso l'avvio sul campo in questa settimana e si prevede di chiuderla nel giro di 16 settembre in particolare, e quindi poi i risultati saranno sicuramente disponibili prima della fine dell'anno. Ecco, poi l'utilizzo immaginate per i risultati De Polis? L'utilizzo è proprio quello di avviare innanzitutto un dibattito all'interno del nostro paese su questi temi, all'interno anche del mondo assicurativo, e mettere a disposizione appunto questi dati del Comitato per l'Educazione Finanziaria, perché possa essere pianificata al meglio l'azione e focalizzati gli interventi. E che poi anche noi come IVAS andremo a realizzare nell'ambito delle nostre attività di sviluppo dell'educazione assicurativa. Quindi è uno strumento di base per avere una conoscenza, una foto approfondita della situazione dei nostri cittadini, come la loro relazione appunto con il mondo assicurativo, ma in generale la loro capacità di agire, diciamo così, al meglio nel settore assicurativo per assicurare i rischi della vita non solo delle famiglie, ma anche ovviamente delle imprese, che è un aspetto molto importante. Quindi ci permetterà di avere una conoscenza più approfondita e quindi di essere molto più efficaci nell'andare a proporre le strategie di educazione assicurativa da sviluppare. Grazie a Stefano De Polis, segretario generale IVAS. Chiediamo un attimo di pazienza alla professoressa Anna Maria Lusardi, perché adesso, cara Deborah, è il momento delle borse. There is no alternative. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta di denari. Eccoci tornati. Allora, con la professoressa Anna Maria Lusardi, direttore del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ragioniamo su questa indagine DOCSA, commissionata appunto dal Comitato, che è un'indagine che ha l'obiettivo di cogliere gli effetti economici della emergenza Covid-19, esaminando qual è la condizione finanziaria delle famiglie prima, naturalmente, e dopo l'inizio della pandemia, la loro resilienza, cioè capacità di adattamento finanziaria, e collegare poi questi aspetti al livello anche di preparazione e di alfabetizzazione. Questo per spiegare il lavoro che è stato fatto. Deborah. Sì, possiamo subito chiedere alla professoressa Lusardi che cosa avete scoperto, in che lasso temporale è stata fatta questa indagine, perché naturalmente questo è anche importante, credo sia stata fatta proprio nell'ultima parte di maggio, quindi in qualche maniera dal lockdown in Italia si stava tentando di venire fuori, ma con qualche ferita addosso, immaginiamo. Professoressa Lusardi, eccoci di nuovo a lei. Sì, grazie. L'indagine misura la situazione finanziaria prima e dopo la crisi ed in particolare la fragilità finanziaria, un termine che è stato coniato dalla precedente crisi ma che ritorna sulla scena. I dati sono stati raccolti dal 27 maggio al 10 giugno, quindi molto recenti, e che vogliono guardare anche alla situazione dopo diciamo vari mesi dall'inizio della crisi. E i risultati fanno vedere questa ferita, come diceva prima Deborah. Ad esempio si fa vedere che quando si guarda la capacità, ad esempio, di far fronte ad una spesa improvvisa, una famiglia su tre è fragile. Ed in particolare sono fragili alcuni gruppi, importanti come i giovani, le donne, chi ha un basso livello di istruzione e chi vive al sud o nelle isole. E un altro aspetto importante dell'indagine è la relazione tra la conoscenza finanziaria e la fragilità finanziaria. I dati ci dicono che la conoscenza finanziaria in Italia è bassa, uno risultato che abbiamo visto anche in altre indagini. Ma la cosa più importante è che c'è un'importante relazione con la fragilità finanziaria, cioè chi ha la conoscenza più bassa è più fragile. E come dice l'indagine, come continuiamo anche a dire noi, la conoscenza finanziaria conta, chi sa di più riesce anche ad essere più robusto, più resiliente finanziariamente. Ecco, professoressa, ma quali sono gli indicatori che ci dicono quando una famiglia è finanziariamente fragile, gli indicatori più importanti, più rilevanti? Abbiamo usato un indicatore che è stato usato anche in studi internazionali ed è proprio questa capacità di far fronte ad una spesa improvvisa di 2.000 euro entro un mese. Noi chiediamo, la domanda è: se dovesse presentarsi una necessità imprevista, quanto ti senti sicuro di poter rimediare 2.000 euro entro un mese per farvi fronte? È un indicatore che misura proprio la situazione finanziaria delle famiglie con una sola domanda, e direi in particolare che è un indicatore del benessere o magari del malessere della situazione finanziaria delle famiglie in questo momento. E lo abbiamo proprio utilizzato per fare una misura, diciamo, di questa fragilità finanziaria. Deborah. Torniamo a quanto si diceva prima, professoressa Lusardi, parliamo dei gruppi che hanno manifestato dei gruppi sociali dal punto di vista anagrafico, che hanno manifestato delle evidenze particolarmente significative. I giovani monitorati dai 18 ai 34 anni e le donne. Quali sono le evidenze emerse per loro e soprattutto che cosa si può dire e fare per loro, partendo chiaramente dalle problematiche più diffuse che sono state riscontrate all'interno di queste categorie? Sì, tutti gli indicatori, sia questo che ho citato prima, ma anche altri che abbiamo usato nell'indagine, come ad esempio la capacità di avere un reddito che ti permette di arrivare alla fine del mese, indicatori di ansia finanziaria e così via, parlano della fragilità delle donne e dei giovani. Ricordiamoci che sono i giovani, ad esempio, che hanno i lavori più insicuri e precari, e ricordiamoci che con la chiusura delle scuole le donne hanno dovuto occuparsi molto spesso dei figli, e molto spesso sono anche le persone che sono state in prima linea come lavoratori essenziali per far fronte a questa crisi. Credo che sia molto importante, l'indagine vuole dedicare e attirare l'attenzione su questi due gruppi perché sono anche la colonna portante del nostro paese, e speriamo che questa crisi diventi anche una occasione per ripensare al futuro, per costruire una ripresa che sia basata sulla inclusività e sulla formazione dei giovani. Temi che erano già presenti nel rapporto Colao, ma che la nostra indagine riprende e fa vedere. Sono due gruppi importanti, due gruppi che hanno sofferto molto per la crisi e due gruppi su cui si dovrebbe investire di più. Tra l'altro, sappiamo sì, prego, no, prego, sarà proprio l'impegno del prossimo mese dell'educazione finanziaria sul tema dei giovani, ma direi di non svelare in anticipo appunto quello che ci dirà tra poco la professoressa Lusardi. Mauro. No, volevo dire che ci scrivono diversi ascoltatori. Ovviamente, come puoi immaginare, Deborah, già il tema delle polizze aveva scaldato, per così dire, l'educazione assicurativa già aveva scaldato gli animi. Ne siamo contenti, naturalmente, cioè, se vuol dire che il tema è interessante. Ricordo ricordo comunque i numeri 349-238-6666 per gli sms e whatsapp, il numero verde 800-24-0024. E qualche ascoltatore dice sì, però dobbiamo sempre sentirci dire che non miglioriamo dal punto di vista dell'educazione finanziaria, della preparazione. Però forse non è esattamente così, professore Salusardi, un pochino si vedono dei miglioramenti. Sì, si sono visti dei miglioramenti, ad esempio nell'ultimo rapporto OCSE che confronta l'Italia con altri 26 paesi, anzi 25 paesi. Quello che vediamo è un miglioramento per quanto riguarda le conoscenze finanziarie, un po' meno per quanto riguarda il comportamento finanziario, e quindi dobbiamo concentrarci anche su quello per almeno allinearci ai paesi, ad esempio europei, uguali al nostro. Allora, guardi, io so che lei, professoressa, è una estimatrice dei sonetti che noi introduciamo nella trasmissione. E allora volevo proporle questa volta un sonetto che non è mio, chiedo scusa, ma è di un ascoltatore che ha accettato la nostra sfida poetica. Noi abbiamo sfidato gli ascoltatori a mandare dei componimenti poetici in competizione con me, che mi sono autonominato il poeta titolare. Questa volta Martino Pezzei si è presentato con un componimento che vado a declamare. Di fisco, di mercati e di pensioni, ahimè, troppi italiani sono ignari, finendo così preda di marpioni. Or dunque, se i tuoi soldi ti son cari, cerca lesto su Radio 24 l'utile programma Due di Denari. Se non vuoi farti mettere nel sacco, lì ci sarà il sommo Mauro Meazza, capello grigio e fumo di tabacco. E da spartir con lui l'ambita piazza la marchigiana Deborah Rosciani, che lui fa molto spesso uscire pazza. Lesta, ella si destreggia tra i pantani di Irpe, Fires e simili balzelli per mantenere i nostri conti sani. Con nuove idee per i nostri cervelli, tanti esperti di valor mondiale varcano volentieri qui i cancelli. Competenza bancaria o pur fiscale, o in tema di bollette a 28 dì, gli ospiti ci sollevano il morale. Dov'è il nuovo lavoro? Mercoledì getta una luce sull'occupazione da Ventimiglia fino a Canicattì. E per non prendere in borsa un bel bidone, giovedì con Investire Informati viene a tutti elargita informazione. E infin, se alla guida siete bloccati e dai roboanti clacson assordati, con attenzione ascoltate il traffico! La rivoluzione del futuro! Semini un pixel e in due minuti cresce una foresta digitale! La rivoluzione del futuro! Alle promesse impossibili, in sistemi abbiamo sempre preferito la costanza dell'evoluzione. Da oltre 40 anni lavoriamo per darvi il meglio dell'innovazione senza che questo diventi un problema per voi. Le nostre soluzioni sono pensate per semplificare la vostra crescita nel digitale. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Due di denari. Deborah, eccoci giunti allora all'ultima parte. Stiamo raccontando con graditissima ospite la professoressa Anna Maria Lusardi, direttore del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. Stiamo raccontando, dicevo, questa indagine DOXA che vuole cogliere gli effetti economici della emergenza Covid-19. Ci ha spiegato la professoressa, un'indagine condotta già quando si vedeva un pochino di luce, nel senso eravamo usciti dalla parte più dura della quarantena, del cosiddetto lockdown, stavamo tra la fine di maggio e i primi di giugno, quindi anche per capire con quale stato d'animo e quale fragilità finanziaria, questo il termine, i termini usati, le famiglie, noi italiani, stiamo affrontando questa ripartenza dopo lo stop imposto. Deborah, prego, Anna Maria, sì, a tua disposizione per le tue domande. A nostra. No, tra l'altro stavo riguardando i punti più importanti, più rilevanti emersi da questa indagine, che ci racconta anche che il 35% delle famiglie interpellate dichiara di provare una sensazione d'ansia pensando alla propria situazione finanziaria. Peraltro è una indicazione molto simile a quella che già la Consob aveva dato nella sua rilevazione di un paio di anni fa. Il fatto di dover prendere una decisione finanziaria genera sempre ansia in molte persone. Questo è veramente un tema molto interessante che andrebbe esplorato. Ma con Anna Maria Lusardi, in realtà, io volevo fare un po' un punto della situazione sull'attività del comitato, che è alla fine del suo primo triennio e presto appunto ci si dovrà impegnare nella stesura dell'agenda per il prossimo triennio di attività. Ma professoressa Lusardi, se dovesse indicarci quello che lei può considerare il risultato più importante ottenuto con il vostro lavoro, un lavoro che peraltro è stato faticoso perché insomma si è attuato in un triennio complicato politicamente, di difficoltà economiche, di mercati finanziari che sono andati su e giù, per cui molto sfidante, un triennio sfidante, chiamiamolo così. E quindi il risultato più importante per lei quale indicherebbe? Poi andiamo all'agenda del prossimo triennio, ma andiamo subito invece a quello che ritiene il risultato più brillante che ha potuto, che può dire di aver portato a casa. Grazie Deborah. Voglio citare due risultati. Uno è di essere riusciti a mobilitare il paese con tante iniziative di educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa durante il mese dell'educazione finanziaria che ogni anno si fa ad ottobre. Devo dire che abbiamo trasformato il paese in un laboratorio di idee e di iniziative, e grazie anche all'aiuto di tutti e devo dire anche di Radio 24. Questo anno speriamo di fare di più, le iscrizioni sono già aperte ed è quindi possibile iscrivere le proprie iniziative. E secondo è di aver costruito un portale per l'educazione finanziaria, il nostro portale disponibile presso www.quellocheconta.gov.it, un portale che è continuamente aggiornato e che vuole essere una fonte autorevole, anche se semplice, di educazione e di informazione. E noi speriamo e ci auguriamo che venga usato per fare educazione finanziaria non solo durante il mese, ma sempre, e anche utilizzato da tutti quelli che vogliono avere qualche materiale, vogliono avere informazione e vogliono fare educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. E per quanto riguarda allora, non voglio farle svelare diciamo i progetti del prossimo mese di educazione finanziaria, per carità, già sappiamo, però abbiamo dato qualche anticipazione, ci sarà una attenzione particolare all'aspetto previdenziale, che è uno dei tre delle tre linee per così dire, da una parte dell'educazione finanziaria, poi quella assicurativa e poi quella previdenziale. Questo già lo abbiamo rivelato anche ai nostri ascoltatori, ma il vostro primo impegno come comitato, la prima cosa che mette in agenda, quale potrebbe essere? La nostra battaglia nel prossimo triennio sarà concentrata su come inserire l'educazione finanziaria a scuola e sul posto di lavoro. Adesso con l'educazione civica c'è un'opportunità, ad esempio, di entrare in quei temi e speriamo che di riuscire ad entrare nella scuola, perché si deve partire dai giovani, è importante investire sui giovani ed è importante che i giovani abbiano queste conoscenze. E anche tramite la scuola si può poi arrivare alle famiglie. Ci piacerebbe avere l'educazione finanziaria anche nei comuni italiani, ad esempio i sindaci potrebbero organizzare iniziative di educazione finanziaria usando il nostro portale, qualcuno lo ha fatto durante il mese ed è andata molto bene. Tra l'altro, Deborah, sul sito quellocheconta.gov.it, cioè il sito di educazione finanziaria che sempre ricordiamo, ci sono anche proprio queste evidenze che sono emerse dalla indagine sulla fragilità finanziaria delle famiglie e la loro resilienza. Dico bene, professoressa Lusardi? Certamente, abbiamo messo i risultati dell'indagine sul nostro portale, anche con un po' di commenti. Quindi chi è interessato a leggere questa iniziativa, questa indagine e i suoi risultati può trovarla sul nostro portale, che ricordo è www.quellocheconta.gov.it. Volevo concludere con una piccola nota carina, se mi permettete, perché la professoressa Lusardi sta vivendo il suo lockdown in questo periodo ancora a Washington. Noi speriamo che possa presto raggiungerci di nuovo in Italia, a Roma, per coordinare appunto le attività del comitato, come ha egregiamente fatto in questi mesi. Però proprio per non perdere il contatto con i risparmiatori italiani che seguono l'attività del comitato attraverso il portale, lei, professoressa Lusardi, si è inventata, tra virgolette, questa rubrica, che è anche un podcast, dalla scrivania di Anna. La sta portando avanti ancora? Certamente. Io scrivo di questi argomenti e di finanza personale, e in particolare in queste ultime settimane ho proprio scritto sulla resilienza finanziaria, su come essere più resilienti, come possiamo diventare un po' più robusti finanziariamente, e la prossima lettera sarà proprio dedicata ai risultati di questa ultima indagine. E poi continuerò proprio scrivendo di questi argomenti, proprio prendendo spunto dai risultati della nostra indagine e cercando di guardare e di risolvere anche gli aspetti di maggiore debolezza per quanto riguarda ad esempio la conoscenza finanziaria e anche i comportamenti finanziari, dove noi ci comportiamo forse peggio e dove si possono fare dei miglioramenti. Grazie, grazie ad Anna Maria Lusardi, che dirige il Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. Cara Debora, siamo giunti al termine di questa settimana, torniamo naturalmente lunedì, più belli e buon più forti che prima. Belli soprattutto, oserei dire. Buona giornata.